Qualche evangelico nel leggere questo titolo potrà offendersi, perché comunemente con il termine messa si intende il rito liturgico più importante della religione cattolica romana celebrato dal sacerdote alla presenza e con la partecipazione della comunità dei fedeli, nel quale, mediante i segni sacramentali dell'offerta a Dio del corpo e del sangue di Gesù Cristo sotto le specie del pane e del vino, si rinnova e contemporaneamente si rammenta il sacrificio della croce. Non è certamente questo ciò che intendo con la locuzione messa evangelica, ma tolto questo aspetto, il raduno dei figli di Dio, diventati tali per un solo atto di fede salvifica in Cristo, non si discosta molto da quello cattolico romano. Infatti, se i credenti evangelici pregano, pregano anche i cattolici. Se gli evangelici cantano, cantano anche i cattolici, e a volte persino gli inni sono i medesimi. Gli evangelici leggono la Bibbia durante il loro culto, lo fanno pure i cattolici, così come ambedue la meditano e la predicano. Dirò di più. I cattolici predicano il perdono dei peccati? Anche gli evangelici lo fanno. Parlano forse gli evangelici dell'amore di Dio che non abbandona mai l'uomo? Lo fanno anche i cattolici. Che cosa, allora, distingue il culto evangelico dalla messa cattolica? Forse la dottrina della transostanziazione, cioè che il pane e il vino si trasformano nel corpo e il sangue di Gesù. Se fosse solo questo, quale utilità se ne ricaverebbe agli atti pratici? Chi è in grado di vedere se il pane e il vino si trasformano? La dottrina cattolica della transostanziazione rimane per l'adoratore un puro concetto filosofico o al massimo un atto di fede. Ma i presenti non ne notano la differenza. Tanto è vero che molte persone religiose, agli inizi del loro presenziare a un culto evangelico, affermano di non trovare differenza tra questo e la messa cattolica. È facile attribuire questo effetto alla loro ignoranza in materia, ma i credenti rimangono responsabili di non far balzare agli occhi degli increduli quale sia la vera differenza distintiva dal cattolicesimo. Qual è, allora, la differenza evidente mediante la quale si può dire che il culto evangelico non sia la messa cattolica e la messa cattolica si distingua nella pratica dal culto evangelico? La risposta ci è, ma bisogna partire da molto lontano. Dobbiamo riconoscere che il vero problema degli uomini nei confronti di Dio o della creatura, rispetto al Creatore, ha un solo nome: peccato. Per peccato si intende la disubbidienza nascosta e palese, conscia e inconscia, alla legge di Dio, della quale la Bibbia parla dalle prime alle ultime pagine. In effetti, il primo peccato è stato commesso dai nostri progenitori, Adamo ed Eva. E da quel momento la narrazione biblica ci rende noto un continuo crescere di disubbidienza dell'uomo nei confronti del suo Creatore, che è Cristo. La parola di Dio ci illustra quanto la malvagità degli uomini fosse cresciuta dopo circa 2000 anni di storia dalla creazione dell'umanità, mediante la seguente sentenza. Ora l'Eterno vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra, e che tutti i disegni dei pensieri del loro cuore non erano altro che male in ogni tempo. Genesi 6.5. Proprio a seguito di questa, Cristo mandò il diluvio sulla terra per far morire tutti gli abitanti su di essa all'infuori di 8 persone, cioè Noè, la moglie e i loro 3 figli con le loro rispettive consorti. In seguito Cristo scelse Abramo, un arameo errante, per formarsi un popolo che gli appartenesse e perché facesse la sua volontà. I discendenti di Abramo divennero nella terra di Egitto un popolo schiavo di circa 2 milioni di persone, che Cristo liberò miracolosamente e condusse al monte Sinai. Sul monte Cristo trattò dettagliatamente il problema del peccato e diede i 10 comandamenti e moltissime leggi cultuali e civili perché il popolo non peccasse. Inoltre Cristo istituì dei sacerdoti perché chi avesse trasgredito la legge offrisse dei sacrifici affinché il peccato fosse momentaneamente coperto. Proprio per questa religiosità non vi è un popolo più sensibile al peccato di quello ebraico. Infatti, ogni giorno il peccato era ricordato mediante delle funzioni religiose, nel corso delle quali il sacerdote doveva offrire sistematicamente un sacrificio, perché l'ordine era indiscutibile. Or questo è ciò che offrirai sull'altare, 2 agnelli di un anno ogni giorno, per sempre. Es 29.38. prima della venuta di Cristo, nella mente del credente il peccato era comunque sempre presente, poteva pesare sulla sua coscienza, poteva anche non dargli pace, come ci dimostra uno degli uomini più preziosi per Dio, il re Davide, il quale regnò circa 1000 anni prima di Cristo. Nelle sue preghiere ha usato espressioni che mettono in risalto come l'Eterno trattasse i peccati. Beato colui la cui trasgressione è rimessa, il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità e nel cui spirito non ci è inganno, Esaia 32.12. Dunque, il peccato era coperto, rimesso e non imputato, ma non tolto definitivamente nonostante i ripetuti sacrifici. Verità. Questa, anche dichiarata nella lettera agli Ebrei. Ogni sacerdote è in piedi ogni giorno, ministrando e offrendo spesse volte i medesimi sacrifici, che non possono mai togliere i peccati. Eb 10.9. Come poteva colui che si avvicinava a Dio avere una completa pace e gioia, sapendo che comunque i suoi peccati non erano completamente tolti? Non per nulla. La più grande attesa del credente era risolvere una volta per tutte il suo vero problema. Lo si comprende anche dai messaggi di condanna mista a speranza trasmessi dai profeti. Ecco, verranno i giorni, dice l'Eterno, nei quali stabilirò un nuovo patto con la casa di Israele e con la casa di Giuda, non come il patto che ho stabilito con i loro padri nel giorno in cui li presi per mano per farli uscire dal paese di Egitto, perché essi violarono il mio patto, benché io fossi loro Signore, dice l'Eterno. Ma questo è il patto che stabilirò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice l'Eterno. Metterò la mia legge nella loro mente e la scriverò sul loro cuore, e io sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio popolo. Non insegneranno più ciascuno il proprio vicino né ciascuno il proprio fratello, dicendo: conoscete l'Eterno, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice l'Eterno, poiché io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato. Gr 31.3, 1.34. Dunque, Israele aspettava un nuovo patto non in merito alla terra promessa o a leggi cerimoniali, ma in merito ai peccati, il vero problema che divide la creatura con il suo creatore. Dopo il profeta Malachia, il Dio Trino rimane in silenzio per circa 400 anni, quando, ad un tratto, alla nascita di Giovanni il Battista, Zaccaria suo padre, eleva un canto contenente una frase e riferimento al problema del peccato. E tu, o piccolo bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché tu andrai davanti alla faccia del Signore a preparare le sue vie, per dare al suo popolo conoscenza della salvezza mediante il perdono dei loro peccati. Dileci 176-77. Pochi mesi dopo, Gesù viene concepito miracolosamente tramite lo Spirito Santo, e un angelo appare in sogno a Giuseppe turbato e scosso, perché la sua fidanzata era incinta, dicendo: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria come tua moglie, perché ciò che è stato concepito in lei è opera dello Spirito Santo. Ed ella partorirà un figlio, e tu gli porrai nome Gesù, perché egli salverà il suo popolo dai loro peccati. In Matt 1.2021. Dopo la nascita di Gesù, ai pastori appare un angelo nel cielo che li rassicura non tanto per il loro benessere materiale, ma sempre in merito ai peccati. Ah, l'angelo disse loro: non temete, perché vi annunzio una grande gioia che tutto il popolo avrà, poiché oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo, il Signore. LC 2.1011. Un Salvatore poteva essere riferito a tante cose, ma se i peccati non erano perdonati per sempre, come poteva essere Gesù un vero Salvatore? Il problema del peccato era tanto sentito che Giovanni il Battista inizia il suo ministero di profeta, battezzando e predicando un battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati. Mr 1.4. A molti sfugge che Gesù, benché abbia fatto tanto bene e abbia insegnato tante cose, era venuto per mettere in evidenza il grave problema del peccato e risolverlo, togliendolo definitivamente. Tanto è vero che disse: perciò vi ho detto che voi morirete nei vostri peccati, perché se non credete che io sono, voi morirete nei vostri peccati. GV 8.24. Infine Gesù muore sulla croce senza condizioni per i peccati di tutta l'umanità. Le ultime parole da lui pronunciate sono ancora riferite al problema del peccato. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. LC 23:24. Forse non vi è commento più bello in merito all'opera di Gesù di quello descritto nella lettera agli Ebrei. Gesù, dopo aver offerto per sempre un unico sacrificio per i peccati, si è posto a sedere alla destra di Dio. Con un'unica offerta ha reso perfetti per sempre coloro che sono santificati. E ce ne rende testimonianza anche lo Spirito Santo, infatti dopo aver detto «Questo è il patto che farò con loro». «Dopo quei giorni, dice il Signore, io metterò le mie leggi nei loro cuori e le scriverò nelle loro menti». Aggiunge «E non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità». Ora, dove ci è il perdono di queste cose, non ci è più offerta per il peccato. Ebi 10.1.2.16. Dopo la morte e la resurrezione di Cristo, i peccati del credente sono stati tolti e dimenticati. Essendo reso perfetto e giusto davanti a Dio, l'uomo non ha più nessuna ragione di offrire un culto per essere perdonato. Purtroppo pochi hanno compreso il vero e profondo valore dell'opera di Cristo Gesù. La maggioranza delle persone vedono nel sacrificio di Cristo la ragione per essere diventati figli di Dio, di far parte della Chiesa o della sposa di Cristo. Vedono la motivazione per la quale hanno ricevuto il dono dello Spirito Santo e di conseguenza anche i doni al servizio della Chiesa, ma pur essendo queste alcune valide ragioni, non rendono giustizia al sacrificio di Cristo. Fra i tanti problemi dell'umanità, Gesù Cristo è venuto per togliere quello che è effettivamente l'unico e il solo problema, ossia il peccato. Ora che il credente non ha più peccati, ora che non è più peccatore. RM 5.8. Ora che è stato reso giusto. Quando con spontanea volontà mosso dalla riconoscenza offre un culto a Dio, non chiede più perdono dei suoi peccati presenti e futuri, ma offre un sacrificio di lode e di riconoscenza. Perché allora ci sono ancora credenti che durante il culto chiedono perdono? Perché chiedono ancora misericordia e pietà? Pazienza che questa sia una pratica abitudinale nell'ambito del cattolicesimo romano perché il credente ha una mente religiosa e come tutte le religioni il cattolicesimo non può produrre una coscienza secondo Dio. Ma chiedere perdono in un culto ufficiato secondo le regole di Gesù disonora il piano di Dio. Quando gli apostoli trattano nelle loro lettere il problema del peccato, ne parlano sempre come un evento passato. Uno di questi fondamentali passaggi lo troviamo nella seconda lettera ai Corinzi. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Ora tutte le cose sono da Dio che ci ha riconciliati a sé per mezzo di Gesù Cristo e ha dato a noi il ministero della riconciliazione, poiché Dio ha riconciliato il mondo con sé in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, ed ha posto in noi la parola della riconciliazione. 2 Corinzi 5.17-19. Il Dio trino dei cristiani non imputa più nessun peccato a tutta l'umanità intera, per lui il problema radicale del peccato non esiste. E all'uomo non spetta altro che ricevere questo perdono. Questa è la grande rivoluzione prodotta da Gesù nell'ambito religioso, e se il credente chiede ancora perdono a Dio, cosa lo distingue dal cattolico romano? Se durante la messa il cattolico chiede pietà, mentre l'evangelico chiede perdono, non hanno forse tutti e due una mente ancora colpevole? Essere liberati dalla condanna dell'inferno, meno come confessa l'evangelico meno, e avere ancora dei sensi di colpa, non è ridurre drasticamente la grande salvezza e la vita abbondante offerta da Gesù Cristo? Occorre rendere ragione al principe dei giornalisti italiani Indro Montanelli, che ha fatto la seguente riflessione. Gli italiani sono cattolici anche quando si professano atei, perché il cattolicesimo è un abito mentale e una prassi millenaria che ci impregna fino alle midolla. Quando un italiano diventa evangelico si sente tutto nuovo, e sotto certi aspetti lo è, ma al nuovo seme occorre tempo per portare a maturità l'uomo nuovo. e a volte il processo di rinnovamento è lento o si ferma ai primi stadi. Spesso si ha la convinzione d'avere per lo più realizzata l'opera, invece la vecchia sostanza è stata solo rivestita da un diverso linguaggio. Può succedere, cioè, che s'argomenti usando dei versetti biblici, ma gli schemi di ragionamento restano quelli di una cultura che alcuni definiscono cattolico-comunista. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, l'Italia era pervasa dallo scontro fra cattolici e comunisti, che si ritenevano l'uno il contrario dell'altro e, in parte, lo erano. Restavano però quelle profonde somiglianze che caratterizzano la grande maggioranza del popolo italiano. Una simile riflessione è seria e perciò va presa seriamente. Sì, è vero. Per quanto il credente rinnovi la sua mente con la lettura della parola di Dio, i vecchi schemi cattolici romani sono solo rivestiti meno, quando va bene meno, da un diverso linguaggio. Leggevo di recente in un periodico evangelico, nella sesta giornata del dialogo cristiano-islamico, la seguente dichiarazione. Il dialogo tra cristiani e islamici è per noi un dovere spirituale, oltre che civile, perché riguarda due religioni che adorano lo stesso Dio. Officine Patmos, dicembre 2007. E ancora dopo aver ringraziato Dio per aver messo nel loro cuore la certezza di essere parte della Chiesa, riconoscono nel Papa un fratello in Cristo. Perché si continua a mentire a se stessi? Cosa serve sostenere che evangelici e musulmani hanno lo stesso Dio quando gli stessi musulmani lo negano? I musulmani sostengono che vi è un solo Dio, cioè Allah, e il suo profeta è Maometto. Come possono quindi gli evangelici dire che vi è un solo Dio quando quello che professano è Trino e Gesù Cristo è suo figlio? Come può il Papa essere fratello degli evangelici quando lui stesso sostiene che, meno come dice anche il catechismo della religione cattolica, che vi è una sola Chiesa che sussiste nella Chiesa cattolica governata dal successore di Pietro e dai vescovi in comunione con lui, 816. Cosa serve a mentire a se stessi? Si pensa forse di avvicinare chi la pensa diversamente? Si pensa forse di convertire il prossimo? Secondo Dio vi è una sola conversione che consistente unicamente nel cambiare la mentalità ecumenica accettando la radicalità di Cristo e del suo messaggio. Forse si pensa di agire per amore, dichiarando che tutti sono fratelli, ma il vero amore agisce sempre nella verità. Non tener conto della verità quando si predica l'Evangelo significa accelerare la venuta dell'Anticristo, la cui opera si avvalerà proprio di un messaggio ecumenico finalizzato a formare una sola religione. Chi è in grado di capire questo? La parola Evangelo non vuol dire che tutti siamo fratelli. Piuttosto, il senso originale di questo termine, ai tempi di Gesù, era una notizia positiva riguardante un gesto di beneficenza immeritata che qualcuno, un imperatore o benefattore, compiva. Ora, come possono avere lo stesso Dio? Evangelici, cattolici e musulmani, quando per i cattolici e musulmani la salvezza si ottiene tramite delle opere, se il perdono dei peccati da parte di Gesù è solo parziale e io devo fare la mia parte per meritarlo, è forse questo l'Evangelo? Se io chiedo ancora perdono dei peccati, ho forse accettato il vero Evangelo? Come posso predicare il vero Vangelo se non lo vivo? Come possono gli increduli credere a Cristo e al suo Vangelo se questo non si differisce dagli altri? La messa evangelica. Questo è il culto di molti credenti che sono diventati figli di Dio mediante un atto consapevole in Cristo, se non vivono nel perdono totale di Dio. Anche perché questa è la vera differenza tra la religione cattolica romana e il vero cristianesimo. Se una persona non ha mai visto una funzione religiosa e assiste ad una messa cattolica nella quale si cantano inni e si invoca il perdono di Dio, e poi assiste ad un culto evangelico nel quale si cantano inni e si invoca perdono per i propri peccati, è forse in grado di comprendere la differenza tra la messa cattolica e quella evangelica? Si potrebbe spiegare con tutto l'amore possibile che le dottrine sono diverse, ma nella pratica cosa cambia? dato che il suo problema è il peccato, quali delle due funzioni religiose è la migliore e conveniente per lui? Se invece nel culto evangelico si loda e si ringrazia per il perdono totale dei peccati, se si alzano grida di gioia perché il peccato è stato risolto una volta per sempre, se si vive e si parla da perdonati, chi assiste a questa funzione non trova forse una ragione valida per continuare a frequentare e comprendere in che cosa consiste questo atteggiamento non riscontrabile? Da nessun'altra parte. Non sarà forse stimolato anche lui a prendere una decisione per Cristo per ottenere ciò che il suo cuore desidera? Chi non cerca di risolvere i propri problemi alla radice? Se si ha un mal di gola e si prende qualcosa che lo fa passare solo momentaneamente, facendolo in tal modo durare per dei mesi, chi non desidererebbe avere un rimedio che eliminasse il problema in modo definitivo? Così nel cattolicesimo romano, mediante la confessione auricolare o altri riti, si ottiene una certa serenità momentanea di coscienza, ma questi atti dovranno essere ripetuti fino alla morte. Mentre chi ha posto fede in Cristo non deve avere alcun sentimento di colpevolezza davanti a Dio, perché è consapevole che Gesù è morto per tutti i peccati, passati, presenti e futuri. Come può predicare un credente questo bellissimo messaggio se non lo ha accettato totalmente? Con la ragione, il credente può anche testimoniare di essere stato perdonato, ma di fatto lo nega se continua ancora a chiedere perdono. E se i fatti contraddicono le parole, che valore hanno ancora queste ultime? Se i primi cristiani hanno rivoluzionato il mondo perché hanno avuto il coraggio di abbandonare l'abitudine di incontrarsi nelle sinagoghe, iniziando a riunirsi nelle case per ricordare di essere stati perdonati mediante il rituale del pane e del vino, avranno i credenti del XXI secolo il coraggio di avere un culto dedicato solamente al Nuovo Testamento e all'adorazione e alla lode, perché sono stati già perdonati per l'eternità dai loro peccati. Maggio 2008, Ellero.